della finestra, la Bianca, il Dante del Dante, Dante del Lucio, Dante, sì, il suo e chi è Marino, la Todisca, Galostia, di Todisca, la Romani, l'Afra, la Giudì, la mamma, la Galente, la Matrei, la Reginella, la Rafia, la Giuliana, Osti, la Reginella, ecco, la Ippolita, e poi i fiori secchi che dovevano apportare qualcosa, tutti giacere e dopo si porta anche qualcosa, no? Il sidero 88, ne nacque in anni diversi, anche il Giulio è nato 88, sì. Sacramento, puttane, che diceva Ippolito, Ippolito, che è la tua regina che venne a torre, ma l'aveva fatto partire ancora, guarda che lei l'ha il capite che la te aspetta, gli diceva. Sì, prima. Era zio. Sacramento. Prima dirvo, occorre distruggere il cimitero che si sa che l'80% di fai loco. Poteva lasciarlo un passo. Poteva lasciarlo un passo.